Capitolo 33. 7 ottobre. Lo voglio proprio sperare. Questa sera ho sentito Grimsby e Hattersley lamentarsi di quanto fosse poco ospitale il padrone di casa. Ero nascosta dalla tenda nel vano della finestra e loro non mi hanno vista. Stavo guardando la luna alta nel cielo sopra gli olmi che crescevano nel nostro prato e chiedendomi cosa rendesse Arthur tanto romantico da mettersi ad ammirarla anche lui dal portico di fuori. E quindi niente più bagordi in questa casa? Stava dicendo Hattersley. Ero certo che non sarebbe riuscito a essere tanto ospitale a lungo, ma non mi aspettavo certo che finisse così, ha aggiunto ridendo. Immaginavo piuttosto che la nostra affascinante padrona di casa avrebbe drizzato gli aculei minacciando di cacciarci se non ci fossimo decisi a comportarci meglio. E questo invece non te l'aspettavi, gli ha detto Grimsby con una risata chioccia. Ad ogni modo vedrai che le cose cambieranno di nuovo non appena sarà stufo di lei. Se torniamo tra 1 o 2 anni potremo fare come ci pare e piace. Non lo so, non sembra una donna di cui ci si stufi tanto presto. Comunque è davvero incredibile che ora noi non ci si possa divertire perché lui ha deciso di comportarsi a modo. È sempre colpa delle donne, ha detto Grimsby. Sono la rovina del mondo. Non fanno che provocare disastri e seccature con i loro visi fintamente onesti e le loro dannate linguacce ingannatrici. Allora sono uscita allo scoperto e passando loro davanti ho sorriso a Grimsby e ho lasciato la stanza. Avevo visto che Arthur si era avviato verso il boschetto e l'ho raggiunto sul vialetto. Mi sentivo così leggera, così colma di affetto per lui che gli ho gettato le braccia al collo da dietro. La sua reazione è stata piuttosto strana. Sulle prime ha esclamato: Tesoro mio, stringendomi come faceva un tempo. Poi si è ritratto d'improvviso e con orrore ha detto: Helen, ma che ti prende? Ho potuto vedere, grazie alla luce che filtrava attraverso gli alberi, che era effettivamente molto pallido e turbato. Il fatto che la sua prima reazione sia stata quella più istintivamente affettuosa e la successiva quella dello stupore dimostra che non è stanco di me, in fondo. Ti ho messo paura, Arthur. Ho esclamato ridendo felice. Devi essere molto nervoso. Ma perché l'hai fatto? Come ti è venuto in mente? Mi ha detto lui, divincolandosi dall'abbraccio, e a casa adesso, subito, o morirai di freddo. Non me ne andrò finché non ti avrò detto perché sono venuta. Ho sentito che ti biasimano per la tua condotta troppo sobria, Arthur, e io sono venuta qui appunto per ringraziarti. Secondo loro è colpa delle donne, dicono che siamo una rovina, ma non permettere che la loro opinione ti allontani dalla tua risoluzione e dal tuo affetto per me. Lui si è messo a ridere. A quel punto l'ho di nuovo stretto tra le braccia e tra le lacrime gli ho detto: Continua così e io ti amerò sempre di più. Oh, lo farò, va bene, mi ha detto. Ma adesso torna in casa, pazza creatura che non sei altro. Come ti è venuto in mente di uscire così leggera in una serata così fredda? È una serata incantevole, gli ho risposto. La sera in cui morirai se non te ne vai subito in casa. Corri, va. La vedi in mezzo agli alberi la mia morte? Gli ho domandato, notando che scrutava il bosco come se davvero l'avesse vista arrivare. Non volevo andarmene così presto, tanto mi sentivo felice e piena d'amore per lui, ma ho capito che la mia esitazione lo stava irritando, quindi l'ho baciato e sono andata via. Sono stata allegra per tutto il tempo. Millicent mi ha detto che ero l'anima della serata e di non avermi mai visto così. Non facevo che parlare e sorridere, ero cordiale con tutti. Grimsby, Hattersley, Hargrave, Lady Loborough. Grimsby aveva gli occhi di fuori per lo stupore. Hattersley era di ottimo umore, malgrado il poco vino che gli era stato concesso, ma comunque nei limiti della moderazione. Hargrave e Annabella, per motivi diversi e in maniera diversa, hanno seguito il mio esempio e mi hanno persino superato, lui in eloquenza e lei in esuberanza e impertinenza. Anche Millicent era di ottimo umore, pur nel suo stile tranquillo, vedendo il marito, il fratello e l'adorata amica andare tanto d'accordo. Addirittura Lord Loborough sembrava contagiato dall'allegria generale. Sotto il consueto cipiglio i suoi occhi scuri apparivano accesi e la sua espressione addolcita dal sorriso, e non c'era più traccia di malinconia, né di orgoglio, né di freddezza. Anzi, ha lasciato tutti senza parole con la sua vivacità e l'inconsueto, per quanto discontinuo, brio. Arthur non ha detto molto, ma ha partecipato alla conversazione e alle risate degli altri. Eravamo tutto sommato un'allegra e innocente combriccola. 9 ottobre. Quando ieri Rachel è arrivata a vestirmi per la cena, ho notato che aveva pianto. Volevo sapere perché, ma lei sembrava reticente. Si sentiva poco bene, no? Qualcuno dei suoi amici le aveva dato brutte notizie, no? Qualcuno della servitù le aveva mancato di rispetto, no? Non si tratta di me, signora, ha detto. E allora di cosa, Rachel? Hai letto un romanzo? Oh, che Dio vi benedica, signora, no, ha risposto scuotendo la testa. Poi, con un sospiro, ha aggiunto: il punto è che onestamente non mi piace il modo in cui si sta comportando il signore. E perché mai? A me pare che ultimamente si comporti molto bene, invece. Ah, se la pensate così, allora va bene. E così dicendo, ha ripreso a sistemarmi i capelli, non nel solito modo tranquillo, ma in maniera piuttosto brusca e frettolosa, mormorando apprezzamenti su quanto fossero belli i miei capelli e che avrebbe proprio voluto vedere i suoi a confronto. Terminata la conciatura, li ha sfiorati delicatamente e mi ha accarezzato la testa. Questo gesto d'affetto era per i miei capelli oppure per me, Balia? Le ho chiesto voltandomi a guardarla. E di nuovo ho visto che aveva gli occhi lucidi. Che cosa succede, Rachel? Le ho chiesto. Signora, non so, ma se fossi in voi non lascerei che quella Lady Lobora restasse in questa casa un solo minuto di più. Mi sono sentita come trafitta, ma prima che avessi il tempo di tornare in me abbastanza da chiedere una spiegazione, è entrata Millicent, come fa spesso quando finisce di prepararsi prima, ed è rimasta nella mia stanza fino all'ora di scendere. Deve aver pensato che fossi particolarmente taciturna rispetto al solito. Continuavo a pensare a quel che mi aveva detto Rachel. E speravo, volevo credere, che non si riferisse che ai soliti pettegolezzi della servitù, alimentati magari da qualcosa che hanno visto il mese scorso nel comportamento di Lady Loboraff, o addirittura da quel che avevano visto durante il suo soggiorno precedente in casa nostra. Durante la cena ho osservato lei e Arthur e non ho riscontrato nulla che fosse degno di sospetto, sebbene io non sia diffidente per natura. Dopo cena, Annabella è uscita a passeggiare con il marito al chiaro di luna, dato che la serata era bella come la precedente. Il signor Hargrave è arrivato in soggiorno prima degli altri e mi ha proposto di giocare a scacchi. Non aveva il solito atteggiamento remissivo e orgoglioso che ha in genere con me, a meno che non abbia bevuto. L'ho guardato per assicurarmi che fosse sobrio e lui ha tenuto il mio sguardo con fermezza. Qualcosa nella sua espressione mi sfuggiva, ma sembrava lucido. Non avevo voglia di giocare con lui e gli ho suggerito: Millicent. Ah, non è una brava giocatrice, ha detto. Voglio misurarmi con voi. Coraggio. Non venite a dirmi che non volete interrompere il lavoro, perché so che non lo prendete mai in mano se non per un'ora e solo quando non avete altro da fare. Oh, chi gioca a scacchi è così insocievole, ho osservato. Non è di compagnia a nessuno, eccetto che a se stesso. Ma qui non c'è nessun altro, infatti, a parte voi e Millicent. Io vi guardo volentieri, ha esclamato la nostra comune amica. Siete talmente bravi entrambi che non so prevedere chi vincerà. E ho accettato. Ebbene, signora Huntington, ha detto Hargrave, collocando i vari pezzi sulla scacchiera e rivolgendosi a me lentamente, come se ogni parola avesse un doppio significato. Voi siete una buona giocatrice, ma io sono migliore. Sarà una partita lunga e di sicuro mi terrete testa, ma sarò paziente e vincerò di certo. Così dicendo, mi ha fissato con occhi che non mi sono piaciuti affatto, penetranti, scaltri, insolenti quasi, come se già esultasse per la vittoria. Spero di no, signor Hargrave, gli ho risposto io con un piglio tale da allarmare la povera Millicent. Lui si è limitato a sorridere. Sarà il tempo a deciderlo, ha detto. Così abbiamo iniziato il gioco. Lui appariva concentrato ma sereno, sicuro della sua superiorità. Io invece ero ansiosa di deludere le sue speranze, sentivo che era in ballo qualcosa di più che una semplice partita, come senza dubbio doveva sembrare a lui, e l'idea di venire sconfitta mi turbava parecchio. Volevo evitare che un piccolo successo alimentasse il potere che pensava di avere, o meglio la sua sfacciata sicurezza di sé, o incoraggiasse il miraggio di future conquiste. Giocava in modo calmo e ponderato, mentre io facevo del mio meglio per tenergli testa. Per un po' le sorti del gioco sono rimaste incerte finché a un certo punto la vittoria sembrava essere proprio dalla mia. Ero riuscita a eliminare i suoi pezzi migliori e a rovinare i suoi piani. Lui si è portato una mano alla fronte e ha preso un momento di pausa chiaramente confuso. Ero felicissima di essere in vantaggio, ma ancora non volevo vantarmene. Lui, a quel punto, ha sollevato la testa, mi ha guardata e ha detto: "Voi penserete di vincere adesso, non è così?" "È quel che spero", gli ho risposto mangiando il pedone che aveva fatto avanzare a mio parere per distrazione. Ma non sono voluta essere così generosa da farglielo notare. Tuttavia ero troppo distratta io stessa per considerare le conseguenze della mia mossa. "Gli alfieri mi danno pensiero", ha commentato, "ma qui il cavaliere coraggioso è capace di eliminare il portabandiera", ha detto eliminando il mio ultimo alfiere con il suo cavallo. "E adesso, liberata la strada dei mostri sacri, posso arrivare alla meta." "Ma Walter, cosa dici?" ha commentato Millicent. "Lei ha ancora molti più pezzi di te." "Vi darò del filo da torcere, signore, e potrei farvi scacco matto prima che possiate accorgervene. State attento alla regina." A quel punto la partita si è fatta più serrata. Io ho giocato a testa alta, ma lui era senz'altro più bravo di me. "Siete davvero bravi!" ha commentato il signor Hattersley, che nel frattempo era entrato e ci stava guardando. "Signora Huntington, sbaglio o vi trema la mano, come se vi steste giocando ogni bene? E voi, Walter, bastardo che non siete altro, apparite calmo e tranquillo come se foste già sicuro di vincere, concentrato e spietato come se le steste prosciugando il cuore. Se fossi in voi eviterei di sconfiggerla. Se vincete vi odierà di certo, si vede da come vi guarda." "Tenete a freno la lingua!" gli ho chiesto. Tutto quel parlare mi deconcentrava e nel giro di poche mosse rischiavo di trovarmi in trappola nella rete tessuta dal mio antagonista. "Scacco!" ha esclamato lui d'un tratto. Io ho cercato in preda all'agonia una via di fuga. "Matto!" ha aggiunto infine con calma ma chiaramente compiaciuto. Aveva lasciato la frase in sospeso, rimandando l'ultima parola definitiva per potersi godere il mio sgomento. Ero scioccamente sconcertata da quanto accaduto. Hattersley si è messo a ridere, mentre Millicent era dispiaciuta di vedermi così sconvolta. Hargrave ha appoggiato una mano sulla mia, stringendola lievemente ma con decisione, e mi ha detto: "Battuta, battuta!" guardandomi con entusiasmo e con un affetto e un ardore che rendevano quel commento ancora più offensivo. "No, questo mai, signor Hargrave", ho detto io ritirando la mano. "Volete negarlo?" mi ha domandato indicando con un cenno del capo la scacchiera. "No, certo", ho risposto realizzando quanto dovesse sembrare bizzarra la mia reazione. "Mi avete battuta in questa partita, ecco. Allora volete la rivincita?" "No. Riconoscete la mia superiorità?" "Oh, nel gioco degli scacchi, sì." A quel punto mi sono alzata e sono andata a riprendere il mio lavoro. "Dov'è Annabella?" ha chiesto Hargrave in tono serio dopo essersi guardato attorno. "È uscita con Lord Loboroff", ho risposto io dal momento che si era rivolto proprio a me. "E ancora non è rientrata?" ha chiesto con aria grave. "Evidentemente no." "E dov'è Huntington?" ha domandato guardandosi di nuovo attorno. "Lo sai, è fuori con Grimsby", ha risposto Hattersley soffocando una risatina. Perché quella risata? E perché Hargrave aveva associato proprio loro due? Allora era vero. Questo era il terribile segreto che mi voleva rivelare. Dovevo saperlo al più presto. Mi sono alzata per andare a cercare Rachel e chiederle una spiegazione di quel che mi aveva detto al mattino. Il signor Hargrave però mi ha seguita nell'anticamera e prima che potessi aprirla ha messo delicatamente una mano sulla maniglia della porta. "Posso parlarvi, signora Huntington?" mi ha chiesto con gentilezza e con lo sguardo basso. "Se quel che mi dovete dire merita di essere ascoltato", ho detto io, facendo uno sforzo per restare composta dal momento che stavo tremando. Ha preso una sedia per avvicinarmela, ma io vi ho appoggiato una mano e gli ho chiesto di andare avanti. "State tranquilla", mi ha detto. "Quel che ho da dirvi non è grave in se stesso. Trarrete da sola le vostre conclusioni." "Annabella non è rientrata, avete detto." "Sì, l'ho detto, ma andate avanti." Gli ho detto con enfasi per timore che la mia compostezza mi abbandonasse prima che mi avesse rivelato qualsiasi cosa mi stesse per rivelare. "Avete sentito che Huntington è uscito con Grimsby? Ebbene, ho udito personalmente Grimsby dire a vostro marito: O meglio, l'uomo che si fa chiamare in questo modo. Vi prego, andate avanti! Io ho sentito dire: ce la farò, non ti preoccupare. Ho visto che sono andati verso il laghetto, li raggiungo e gli dico che devo parlare con lui di alcune cose senza disturbare la moglie e che acconsentirà a tornarsene a casa. Io poi mi scuserò e tutto il resto, le strizzerò un occhio e lei capirà che deve andare al boschetto. Io nel frattempo lo terrò occupato parlando di quello che ti ho detto e di qualsiasi altra cosa mi venga in mente. E poi torneremo indietro per l'altra strada e di nuovo lo tratterrò osservando gli alberi, i prati e qualsiasi altra cosa di cui mi riesca di parlare. A quel punto il signor Hargrave si è interrotto e mi ha guardata. Non ho detto nulla e sono uscita di corsa dalla stanza e poi dalla casa. L'incertezza era troppo penosa. Dovevo sapere. Non volevo sospettare di mio marito ingiustamente, solo in base alle accuse di quell'uomo, né fidarmi di lui senza che lo meritasse. Avevo appena raggiunto il bosco quando ho sentito delle voci. Siamo stati lontani troppo. Tornerà sicuramente indietro, stava dicendo Lady Loboroff. Ma no, mia cara, gli ha risposto lui. Adesso va, attraversa il prato di corsa e rientra in casa. Io arriverò dopo un po'. Mi tremavano le ginocchia, mi girava la testa, stavo per svenire. Non volevo però che lei mi vedesse in quelle condizioni, quindi mi sono nascosta dietro un cespuglio per farla passare. Huntington, gli ha detto lei, fermandosi proprio dove la sera prima mi ero fermata io con lui. Non è qui che l'hai baciata? Ha chiesto guardandosi indietro nel fitto del bosco. Lui, uscendo dal bosco, le ha risposto: mia cara, che potevo farci? Sai che devo comportarmi bene con lei il più a lungo che posso. E io allora? Non ti ho visto dozzine di volte baciare quel cane di tuo marito? Mi sono mai lamentato? Ma tu sei sicuro di non amarla ancora? Neppure un po'? Gli ha chiesto lei, posandogli una mano sul braccio e guardandolo negli occhi. Neppure un po', credimi, le ha risposto dandole un bacio sulla guancia arrossata. Santo cielo, devo andare adesso, ha detto lei, ed è corsa via. E lui è rimasto lì, fermo davanti a me. Eppure non avevo ancora il coraggio di affrontarlo in quel momento. Sentivo la bocca asciutta, mi pareva di sprofondare nel terreno e mi stupiva che non sentisse sopra il suono del vento il battito del mio cuore. Stavo per svenire quando l'ho visto passarmi davanti e anche se mi fischiavano le orecchie l'ho sentito distintamente dire tra sé: ecco l'idiota, corri, Annabella, corri! Bene, è riuscita a entrare in casa senza che lui la vedesse. Certo, Grimsby lo sta trattenendo. E poi l'ho sentito ridere piano mentre si allontanava. Che il cielo mi aiuti, ho detto tra me, cadendo in ginocchio a terra, tra l'erba e i rametti umidi che avevo attorno. Ho guardato il cielo tra gli alberi radi, illuminato dalla luna. Mi appariva tutto appannato e tremolante. Cercavo conforto in Dio per sollevare il mio cuore gonfio e ferito, ma non riuscivo a esprimere in forma di preghiera il mio tormento. Poi mi era giunta una leggera folata di vento che, mentre spazzava via le foglie morte, come speranze deluse, mi ha rinfrescato la fronte, facendomi sentire più forte anche nel corpo. Stavo cercando di tornare in me quando di colpo, come se una qualche influenza celeste fosse discesa in mio soccorso, ho fatto un bel respiro e la vista è tornata limpida. Ho visto di nuovo chiaramente la luna che splendeva e le nuvole passare leggere per il cielo scuro. Ho visto le stelle luminose. Sapevo che il loro Dio è anche il mio, che lui è forte a salvare, lesto a sentire. Sembravano dirmi: non ti lascerò, non ti abbandonerò. Questo mi sembrava che stessero sussurrandomi quelle lucine da lassù, eppure no, era lui che non mi avrebbe lasciata. Ho sentito che avrei trovato la forza di affrontare le mie pene contro la terra e l'inferno, guadagnandomi infine un glorioso riposo. Più fresca e lucida, persino più composta, mi sono avviata verso casa. Molto del mio rinnovato vigore e del mio coraggio mi hanno quasi abbandonato mentre entravo, lasciandomi alle spalle l'aria fresca e il cielo stellato. Ogni cosa mi stringeva il cuore, l'ingresso, la luce della lampada, le scale, le stanze, le voci e le risate che mi giungevano dal salotto. Come sarei riuscita a sopportare il futuro in quella casa, con quelle persone? Come sarei riuscita a sopportare, a vivere? Proprio in quel momento mi ha raggiunto John, dicendomi che l'avevano mandato a chiamarmi perché aveva servito il tè e il padrone voleva sapere se ci sarei stata anche io. Per favore, chiedi alla signora Hattersley di servire lei il tè al posto mio, John. Chiedi loro di scusarmi. Io non mi sento bene. Sono andata nella sala da pranzo, vuota e silenziosa, se non per il suono del vento di fuori e la debole luce della luna che filtrava dagli scuri e dalle tende. Camminavo veloce, su e giù, tormentata da tristi pensieri. Com'era diversa quella sera dalla precedente. Evidentemente era stato l'ultimo sprazzo di gioia della mia vita. Che ingenua ero stata a sentirmi tanto felice. Ecco il perché della strana reazione di Arthur nel boschetto. L'istintivo affetto era per la sua amata. L'orrore per la moglie. Mi era anche chiaro quello di cui parlavano Grimsby e Hattersley. Si riferivano di certo al suo amore per lei, non per me. La porta del soggiorno si è aperta e qualcuno si è messo a salire velocemente le scale. Doveva essere Millicent, poverina, che veniva a sentire come stavo. Solo a lei importava di me. Non avevo ancora pianto, ma ecco che le lacrime cominciavano a scendere, libere e copiose. Ecco come è riuscita a farmi del bene anche a distanza. L'ho sentita tornare indietro dopo avermi cercata invano, scendendo per le scale più lentamente di come era salita. Sarebbe entrata in sala da pranzo? Mi avrebbe scoperta? No, ecco che girava verso il salotto. Meglio così, non avrei saputo come accoglierla né cosa dirle. Non volevo un amico nel mio dolore, non lo meritavo e non lo volevo. Mi ero messa quel peso sulle spalle da sola e da sola l'avrei portato. Vedendo che si avvicinava l'ora di andare a dormire, mi sono asciugata le lacrime e ho schiarito la voce e la mente. Dovevo vedere Arthur e parlargli quella sera stessa, ma con calma. Non volevo fare scenate, nulla di cui potesse lagnarsi o vantarsi con gli amici. Niente di cui potesse ridere con la sua amante. Ho sentito che il gruppo si stava salutando per raggiungere ognuno la propria stanza. Ho aperto poco la porta e proprio mentre stava passandomi davanti gli ho chiesto di entrare. Ma che hai, Helen? Perché non sei venuta a servire il tè? E che ci fai qui al buio? Che ti prende? Sembri un fantasma. Ha commentato mio marito osservandomi alla luce della candela. Non ti riguarda, gli ho detto. Evidentemente non hai alcun riguardo per me e io non ne ho più per te. Ma che diavolo vai dicendo? Ha sussurrato. Ti lascerei anche domani, senza più mettere piede qui dentro, se non fosse per mio figlio. Poi mi sono interrotta per calmarmi un istante. Che diamine, Helen, cosa mi vuoi dire? Lo sai perfettamente, ed è meglio non sprecare tempo in spiegazioni inutili. Dimmi tu, piuttosto. A quel punto ha giurato di non sapere a cosa mi riferissi, chiedendomi di dirgli chi avesse calunniato il suo nome e a quali infami menzogne avessi creduto. Non prenderti il disturbo di giurare il falso e sforzarti di nascondere a ogni costo la verità, gli ho risposto con distacco. Non è sulla parola di qualcun altro che mi baso. Ero nel boschetto stasera e ho potuto sentire e vedere da sola ogni cosa. Non serviva aggiungere altro. L'ho visto soffocare un moto di sgomento e dispiacere. Ha mormorato: Eccoci. Ha posato la candela su una sedia lì accanto e si è addossato alla parete a braccia conserte. E quindi? Mi ha domandato arrogante, eppure disperato. Solo questo. Mi lascerai prendere nostro figlio, quel che resta della mia dote, e andarmene? Andare dove? Ovunque lui sia libero dalla tua influenza pericolosa, e io dalla tua presenza e tu dalla mia. No. Allora mi lascerai prendere il bambino senza i soldi? No. E neppure te stessa senza il bambino. Pensi che mi faccia piacere diventare lo zimbello del paese per i tuoi capricci? Quindi devo restare qui, odiata e umiliata? E sia, ma da ora in avanti saremo marito e moglie solo di nome. Mi sta bene. Sono la madre di tuo figlio e la tua governante, nient'altro. Non servirà a fingere un amore che non provi. Non pretenderò carezze senza cuore da parte tua, né te ne darò, né le sopporterò. Non mi lascerò incantare dal guscio vuoto dell'intimità coniugale, quando il suo contenuto è già di un'altra. Così sia, signora. Vedremo chi dei due si stancherà prima. Se di qualcosa mi stancherò, sarà di vivere nello stesso mondo con te, non certo di vivere senza l'inganno del tuo amore. Quando ti stancherai tu dei tuoi peccati, e sarai sinceramente pentito, forse ti perdonerò e proverò di nuovo ad amarti, ma sarà veramente difficile. E intanto che farai? Andrai a lagnarti di me con la signora Hargrave? O scriverai lunghe lettere alla zia Maxwell per dirle che grande farabutto è tuo marito? Non mi lagnerò proprio con nessuno. Tuttavia, fino a questo momento ho fatto del mio meglio per nascondere i tuoi vizi agli altri e assegnarti virtù che non possiedi, mentre d'ora in avanti dovrai cavartela da solo. L'ho lasciato che imprecava tra sé e sono salita in camera. Signora, siete sconvolta, mi ha detto Rachel, guardandomi con angoscia. Sì, è così, Rachel, le ho detto, rispondendo al suo sguardo più che alle sue parole. Io lo sapevo, non mi sarei mai permessa altrimenti di insinuare una cosa simile. Non darti pena, le ho detto, dandole un bacio sulla guancia pallida e rugosa. Lo sopporterò meglio di quanto immagini. Voi siete sempre stata il genere di donna brava a sopportare, ma al posto vostro questa volta non sopporterei e mi abbandonerei a un bel pianto e poi gliela farei vedere, gli farei capire che significa. Sì, gli ho parlato, l'ho interrotta e ho detto quel che andava detto. E allora piangerei, senza cercare di restar calma a ogni costo, mentre il cuore mi scoppia nel petto. Ho pianto, infatti, e la calma che vedi è reale. Non agitarmi, quindi, non parliamone più e non dir nulla al resto della servitù. Ora puoi andare. Buonanotte. Non perdere il sonno a causa mia, Rachel. Dormirò bene, anche io, se ci riesco. Malgrado le migliori intenzioni, il letto mi era insopportabile, tanto che alle 2 mi sono dovuta alzare. Ho acceso la lampada con la candela di giunco che non si era ancora spenta e sono venuta alla scrivania per raccontare quanto accaduto. Meglio tenere la mia mente impegnata così che restare a letto e lasciarla libera di indugiare sul ricordo del passato o sull'incombente futuro. Mi è servito raccontare gli avvenimenti che hanno condotto alla perdita della pace per me, rintracciando anche i più piccoli dettagli attraverso i quali sono arrivata a scoprire la verità. Il sonno non mi avrebbe ristorato altrettanto, né mi avrebbe schiarito le idee e preparato ad affrontare al meglio quel che mi aspetta domani, o almeno è quel che spero. Tuttavia, ogni volta che smetto di scrivere sento che mi fa male la testa e se mi guardo allo specchio il mio volto affaticato e teso mi spaventa. Ecco. Rachel è venuta per vestirmi e ha detto che si vede che ho passato una nottataccia. Anche Millicent si è affacciata un istante per sapere come stavo. Le ho detto che mi sentivo meglio, di non far caso al mio aspetto, dovuto a una notte difficile. Io vorrei che la giornata fosse già finita. Mi vengono i brividi al pensiero di scendere per la colazione. Come farò a incontrarli tutti? Devo ricordarmi, però, che io non ho nessuna colpa e non ho motivo di temere nulla. Se vorranno disprezzarmi in quanto vittima delle loro colpe, allora avrò pietà della loro follia e condannerò il loro disprezzo. Capitolo 34. Di sera. La colazione è andata bene. Sono rimasta per tutto il tempo tranquilla e composta. Ho risposto pacatamente alle domande sulla mia salute. Il mio aspetto provato è stato associato al malessere passeggero che mi aveva costretta a congedarmi presto la sera prima. Ma come riuscirò a sopportare i giorni, 10 o 12 che mancano ancora alla loro partenza? E perché sperare tanto che se ne vadano? Che farò una volta rimasta sola, per tutti i mesi e gli anni che mi restano da trascorrere in compagnia del mio grande nemico? Perché certamente nessuno poteva ferirmi più di quanto abbia fatto lui. Se penso a quanto l'ho amato, così profondamente e ingenuamente, che sciocca sono stata a dargli fiducia e a darmi tutta quella pena a lottare, sperare e pregare per il suo bene. Ah, com'è stato facile per lui insultare il mio amore senza pietà, tradire la mia fiducia, disprezzare il mio pianto e le mie suppliche e ogni sforzo fatto per salvaguardarlo. Ah, come ha soffocato le mie speranze, rovinato i migliori sentimenti della mia giovinezza, condannandomi a una vita di profonda infelicità. Allora dire che non amo più mio marito è dire poco. Io lo detesto. Questa parola mi colpisce e mi sento in colpa a pronunciarla, ma è vero. Lo detesto. Che Dio abbia pietà della sua anima disgraziata e faccia sì che gli veda e capisca le sue colpe. Io non chiedo altra vendetta per me. Mi basterebbe sapere che egli ha compreso e sentito davvero nel profondo la pena che mi ha inflitto. Potrei persino perdonarlo a quel punto. Eppure, egli è talmente perso nella sua trasgressione che forse in questa vita non potrà rendersi conto di nulla. È inutile continuare a pensarci. Meglio ritrovare la lucidità concentrandomi di nuovo sui dettagli di quanto accaduto durante il giorno. E il signor Hargrave non ha mai smesso di importunarmi con la sua solidarietà e la sua, secondo lui, discreta gentilezza. In effetti, se fosse stata davvero così discreta, l'avrei preferito, perché avrei potuto ignorarla. Invece si mostrava così premuroso e amabile che non mi è possibile liberarmene senza essere sgarbata e irriconoscente. Mi pare, a volte, di potergli dare fiducia, dato che si dimostra tanto sincero nelle sue attenzioni, ma considerando la situazione in cui mi trovo, preferisco mantenermi sospettosa. La sua premura e la mia gratitudine nei suoi confronti non devono allontanarmi da me stessa. Se riuscirò a non dimenticare la partita a scacchi, il modo in cui mi ha parlato e gli sguardi che tanto giustamente mi avevano irritato, allora sarò abbastanza al sicuro. Ho fatto bene a registrarli con tanta cura. Ho l'impressione che Hargrave voglia parlarmi in privato. Mi è parso che abbia aspettato di averne occasione per tutto il giorno. Ho fatto in modo di deludere le sue attese. Non perché tema quel che mi potrebbe dire, ma perché ho già abbastanza pene senza bisogno di aggravarle con le sue oltraggiose parole di conforto, condoglianze o chissà che altro. Né ho intenzione di litigarci per rispetto nei confronti di Millicent. Questa mattina si è scusato di non uscire a caccia con gli altri, dicendo che aveva da scrivere delle lettere. Eppure, invece di andare in biblioteca, si è fatto portare lo scrittoio in salotto dove ero io, insieme con Millicent e Lady Loboraff. Le altre signore stavano lavorando, mentre io, animata più dal desiderio di non essere coinvolta nella conversazione che da quello di distrarmi, avevo iniziato un libro. Vedendo che preferivo stare per conto mio, Millicent mi ha lasciata tranquilla. Doveva essersene accorta anche Annabella, che tuttavia non ha tenuto la bocca chiusa né ha arginato la sua vivacità. Non faceva che parlare, rivolgendosi quasi sempre a me con grande confidenza e spigliatezza, tanto più esuberante quanto più erano fredde le mie risposte. Il signor Hargrave, che aveva notato la mia irritazione, sollevava di tanto in tanto la testa dallo scrittoio per rispondere al posto mio alle domande e ai commenti di Lady Loboraff, cercando di deviare su di sé le sue attenzioni, ma senza riuscirvi. Annabella pensava forse che per via del mal di testa non avessi tanta voglia di parlare, e si era sicuramente avveduta che la sua loquacità mi dava noia, altrimenti non mi spiego come mai insistesse tanto a parlarmi. Alla fine sono riuscita a farla smettere, porgendole il libro che stavo cercando di leggere aperto sul retro di copertina su cui avevo scritto: «So troppe cose di voi e di quel che fate per esservi sinceramente amica, e poiché non ho il desiderio di essere ipocrita né il vostro stesso talento per l'ipocrisia, non posso neppure fingerlo. Devo chiedervi quindi di porre fine da ora in avanti a qualsiasi forma di confidenza tra di noi. Sappiate inoltre che se vi tratto con educazione, come se foste meritevole di rispetto e considerazione, è solo per rispetto di vostra cugina Millicent e non certo per voi». Dopo aver letto, è diventata tutta rossa e si è morsa il labbro. Ha strappato di nascosto la pagina e l'ha gettata nel camino. Poi ha iniziato a sfogliare il libro e leggerlo o fingere di leggerlo. Di lì a poco, Millicent ha detto che sarebbe andata nella stanza dei bambini e mi ha chiesto se volevo accompagnarla. «Annabella ci vorrà scusare, dato che è impegnata a leggere», ha detto. «Niente affatto», ha esclamato lei, chiudendo il libro e gettandolo sul tavolo. «Vorrei parlare brevemente con Helen. Tu vai intanto, Millicent, ti raggiungerà». A quel punto Millicent è uscita. «Non vi dispiace, Helen?» ha detto. Ero stupita dalla sua insolenza, ma ho accettato di seguirla in biblioteca. Ha chiuso la porta e si è avvicinata al camino. «Chi ve l'ha detto?» «Nessuno. Non sono incapace di vedere con i miei occhi». «Dunque siete sospettosa?» ha esclamato in tono speranzoso. Fino a quel momento mi era sembrato di riconoscere una nota di disperazione nella sua arroganza, mentre a quel punto sembrava quasi sollevata. «No, cara Lady Loboraff, se lo fossi mi sarei accorta molto prima della vostra malvagità. La mia accusa non si basa su un semplice sospetto». «E su cosa allora?» ha chiesto, lasciandosi cadere su una poltrona con i piedi sul parafuoco nel tentativo di apparire tranquilla. «Anche a me piace passeggiare nel parco di sera», le ho risposto. «E il boschetto è uno dei miei posti preferiti». e arrossita di nuovo, ed è rimasta in silenzio, con un dito premuto sulle labbra, a fissare il fuoco acceso. Io sono rimasta a guardarla per un po' con una certa crudele soddisfazione. Poi mi sono avviata alla porta chiedendole se avesse altro da aggiungere. Sì, ha esclamato lei a quel punto saltando in piedi. Voglio sapere se ne parlerete a Lord Loborough. E se lo facessi? Se avete deciso di esporvi al punto da render pubblica la cosa, non posso farvi cambiare idea, ma le conseguenze saranno spaventose. Tuttavia, se deciderete invece di non farlo, allora vi reputerò la creatura più generosa e sarei disposta a fare per voi qualunque cosa, tranne rinunciare alla vostra peccaminosa relazione con mio marito? Non è così? Non ha risposto subito, colpita com'era dallo sgomento e presa da un rancore che non osava manifestare. Significherebbe rinunciare a ciò che mi è più caro nella vita, ha detto velocemente a bassa voce. Poi ha alzato lo sguardo, fissandomi in modo diretto, con gli occhi pieni di lacrime. Insomma, Helen, o signora Huntington, come preferite che vi chiami, glielo direte oppure no? Se siete una donna buona, avete l'occasione di dimostrarlo. Se siete orgogliosa, troverete la vostra rivale pronta a dichiararsi in debito con voi per un gesto di sopportazione tanto nobile. No, non glielo dirò. Sul serio, ha gridato lei, tutta contenta. Permettetemi allora di ringraziarvi sinceramente, ha detto allungandomi la mano. Non serve ringraziarmi, non è certo per voi che non dirò nulla, e nemmeno si tratta di un atto di sopportazione. È che non voglio rendere pubblica la vostra colpa per non dare un dolore a vostro marito. E a Millicent lo direte? No, nella maniera più assoluta, anzi cercherò di fare del mio meglio perché non sappia mai quanto è disonorevole e squallida sua cugina. State usando parole severe, signora Huntington, ma vi perdono. Ora, Lady Loborough, dissi, vi suggerisco di andarvene di qui il prima possibile. Capirete che la vostra presenza mi è profondamente sgradita, e non tanto per il signor Huntington, ho detto notando il suo trionfante sorriso, dato che per quanto mi riguarda potete anche tenervelo, quanto per la fatica che mi costa nascondere continuamente i veri sentimenti che provo per voi e cercare di comportarmi in modo civile, quando in realtà non vi ritengo degna della minima stima. Inoltre, se vi fermerete ancora, temo che la vostra trasgressione non resterà a lungo invisibile alle uniche due persone che ancora non ne sanno nulla. Per il bene di vostro marito e persino per il vostro, Annabella, vi consiglio e vi chiedo di terminare questa colpevole relazione e tornare ai vostri doveri prima che sia troppo tardi. Va bene, mi ha interrotto in un moto di insofferenza. Ma tanto non potrei andarmene prima della data prevista. Non saprei trovare una scusa plausibile. Se me ne andassi da sola, cosa che comunque Lord Loborough non mi lascerebbe fare, o se anche me ne andassi insieme a lui, sarebbe curiosa e desterebbe sospetti. Il nostro soggiorno sta per finire, manca poco più di una settimana ormai, e penso che possiate sopportare di avermi intorno ancora per un po'. Non vi darò più noia con la mia amicizia impertinente. E sia. Io non ho altro da dire. Avete parlato anche con Huntington? Mi ha chiesto mentre stavo uscendo. Come osate fare il suo nome in mia presenza? È stata la mia risposta. Da quel momento non ci siamo più rivolte la parola, se non per ingannare la forma o per necessità.